I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Le frecce e gli Intercity andranno in borsa. È la scelta che ha fatto il governo nell'ambito del piano di privatizzazioni che deve servire a ridurre le partecipazioni pubbliche nelle aziende e ad abbassare la quantità del debito pubblico. Il nuovo AD delle Ferrovie, Renato Mazzoncini, intende quotare il 30% della società che gestisce la parte pregiata dei collegamenti e che crea un margine di ricavi a sua volta del 30%. Gli operatori del mercato hanno già quantificato il potenziale incasso da questa privatizzazione che oscilla tra 1,2 e 1,3 miliardi. L'operazione di sbarco in borsa si accompagna anche a un piano industriale ambizioso che prevede investimenti per 94 miliardi in 10 anni, quindi fino al 2026. Nel piano strategico è prevista una maggiore integrazione con il trasporto su gomma, ampliando la quota di mercato della società di autobus delle Ferrovie, che oggi è al 6% e deve passare al 25%. Nei prossimi mesi sarà perfezionato anche l'accordo quadro che prevede l'acquisto di 450 nuovi treni per i collegamenti regionali e di altri 50 treni diesel. Uno dei punti nodali della nuova strategia è lo sviluppo della digitalizzazione, che significa creare reti multiple per consentire al viaggiatore di programmare gli spostamenti in tempo reale facendo conto su una pluralità di mezzi. Se questo piano riuscirà a conciliare gli interessi dei molti pendolari che giustamente reclamano servizi all'altezza di un paese civile europeo con quelli di un incasso congruo per la cessione della quota di business più redditizio, davvero le Ferrovie avranno dimostrato che un salto di qualità negli investimenti è possibile. E di questo l'Italia, francamente, ha urgentissimo bisogno. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alessandro Plateroti. Un'altra giornata di tensione sui mercati finanziari, ma almeno apparentemente abbiamo evitato un venerdì nero. Dopo una partenza estremamente negativa per le tensioni su Deutsche Bank, più o meno tutti i mercati finanziari hanno preso un passo positivo. Difficile dire il motivo, probabilmente per i mercati finanziari né la Germania né l'Europa permetteranno mai di far cadere un colosso come Deutsche Bank, una banca che oltre ad avere attività di sportello e di banca commerciale tiene in piedi metà del sistema industriale tedesco. Ma che cosa sta succedendo? Probabilmente questo caso va oltre quello finanziario. Altre volte abbiamo visto tensioni sul patrimonio e sul capitale delle banche europee, ma questa volta, grazie ai quantitative easing e agli aiuti di Stato, la leva negoziale, la paura di scatenare crisi sistemiche non è più delle banche, ma in mano ai governi. Quando si chiude il rubinetto della liquidità si fa politica, e in questo caso l'America sembra utilizzare proprio il suo potere finanziario, e in questo caso annunciando una multa che non ha ancora mai dato, come quella alla Volkswagen, per far precipitare nel caos l'intero sistema finanziario europeo. In ballo c'è il famoso TTIP, l'accordo commerciale che l'Europa in questo momento vede con grande perplessità e scetticismo. Guarda caso, nei momenti peggiori negoziali, ovvero la fine del 2015 e ora, l'Europa resisteva e l'America attacca le sue imprese. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.